amici, prendiamo in mano il nostro libro, Il Falsario, la lotta quotidiana contro Satana. Siamo arrivati al capitolo sesto, intitolato Il Principe di questo mondo. E abbiamo visto questo capitolo, cari amici, ha come principe di questo mondo è un'affermazione, è un nome che Cristo dà al demonio, lo chiama il menzognero, ha chiamato l'omicida fin dall'inizio, e Gesù Cristo chiama il demonio il principe di questo mondo, ed è un'affermazione che ricorre ben tre volte, questa espressione di Gesù che chiama il demonio il principe di questo mondo, in Giovanni 12,31, poi 14,30 e 16,11, quindi un'espressione direi importante. E attraverso questa espressione Gesù vuole indicare il potere di Satana. Con l'espressione di principe di questo mondo vuole indicare il potere di Satana, anche l'estensione di questo potere, che non è poca. Quindi noi in questo capitolo stiamo affrontando un problema che sta, direi, a cuore a tutti. È un problema importantissimo. Ed è questo, quanto Satana sia forte. A questo riguardo noi abbiamo messo in guardia da due possibili errori. Il primo errore è quello di sopravvalutare la forza di Satana. Voi dite, ma è possibile cadere in questo errore? Certamente è possibile cadere in questo errore nel sopravvalutare la forza di Satana, cioè ritenere che Satana sia quasi più forte di Cristo. O se vogliamo, in termini più comprensibili a tutti, è che ritenere che il male sia più forte del bene. Questo è un errore gravissimo. Per esempio, un errore di questo genere l'ho visto rappresentato in un film che riprendeva un romanzo di Bernard Nossa, se non vado errato, un film capolavoro. Era intitolato Sotto il sole di Satana, questo film è intitolato Sotto il sole di Satana, che ha per protagonista un sacerdote, il quale appunto, ben compreso del suo ministero, sa che il suo ministero consiste innanzitutto nello strappare le anime al demonio, ma questo sacerdote, l'abbé Donissan, il protagonista del film, si rende perfettamente conto che il potere del maligno è grandissimo, in quanto vede come seduce gli uomini e come distrugge le vite. E allora, di fronte a questo potere, lui pensa di poterlo affrontare con i digiuni, con le preghiere, con le penitenze, con atti eroici del ministero. Lui stesso si pone come l'intrepido guerriero che combatte contro il demonio, ma alla fine il demonio lo gioca perché a un certo momento lui, di fronte alla potenza del demonio, arriva a gridare: insomma, fra voi due, fra Cristo, ditemi chi di voi due è il più forte. È chiaro, quando uno arriva a dir così ha perso la fiducia in Dio, ha perso la fede nella potenza di Dio, nella onnipotenza di Dio. Un film capolavoro, vi dicevo, intitolato Sotto il sole di Satana, e mi pare che riprenda un romanzo di Bernard Nossa, se non vado errato, questo film. E l'errore di fondo è proprio questo, cioè ritenere che il male sia quasi invincibile, che il male sia ineluttabile. E questo errore noi lo facciamo, per quanto riguarda la nostra vita personale, tutte le volte che pensiamo di non poter cambiare vita. Quando noi, di fronte a Cristo che passa e si ferma davanti alla porta del nostro cuore, di fronte a Cristo che bussa alla porta del nostro cuore, pensiamo in questi giorni di conversione in modo particolare, e noi non apriamo perché, diciamo, non riuscirò mai a cambiare vita, non me la sento di lasciare il male, non riuscirò mai a camminare sulla via del bene, non riuscirò mai a salvarmi. Ecco, quando una persona si arrende al male, guarda che quando uno arriva, il demonio ti porta di peccato in peccato a una soglia di non ritorno, salvo un miracolo grandissimo di Dio, che è questa la soglia del non ritorno, a pensarci vengono i brividi. E cioè, a un certo momento tu ti arrendi a lui. Ti arrendi a lui, siccome disperi dalla potenza di Dio e dalla sua grazia, di fronte alla forza delle passioni, tu abbassi la testa, ti sottometti, accetti la schiavitù, e questo è il suo obiettivo, ti vuol portare ad accettare la dannazione. Ad accettare l'inferno, ad accettare di essere un dannato. Questo è un passaggio tremendo. Nessuno si faccia illusioni. Già in questa vita il demonio ti può portare lì, a quel punto lì, cioè alla resa, a rendersi al male, accettare l'idea della perdizione eterna, accettare di essere cittadino della città della perdizione, accettarlo consapevolmente. Il demonio ti può portare lì già in questa vita, ma questo processo tremendo di caduta negli abissi della perdizione, come avviene? Avviene perché tu a un certo momento hai creduto che il male fosse più forte del bene, hai creduto che non fosse possibile spezzare le catene del peccato, non hai avuto fiducia nella potenza della grazia. Lo stesso Paolo rappresenta questa tremenda battaglia nella lettera ai Romani, nel capitolo 7 descrive la potenza del male in noi, e Paolo arriva a gridare: chi ci libererà da questo corpo di morte, cioè che ci trascina al peccato, no? E poi nel capitolo 8 Paolo descrive invece la potenza di Dio, dicendo: è la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, Lui è il vincitore, Lui è il liberatore. È Lui che vince in noi la potenza del male. Quindi, cari amici, c'è veramente il pericolo concreto di sopravvalutare la potenza di Satana. Come se il male fosse invincibile. Come se la grazia di Dio fosse onnipotente. Come se noi non potessimo convertirci. Come se noi non potessimo cambiare vita. Ma a Dio tutto è possibile, cari amici. A Dio tutto è possibile. Anche salvare le vite più perdute. Dall'altra, vedete che stiamo facendo il capitolo 6, che è fondamentale, cioè cerchiamo di comprendere qual è la forza del maligno. Dall'altra abbiamo detto c'è il gravissimo pericolo di sottovalutare la forza di Satana. E questa forza non può essere sottovalutata, per la semplice ragione, prima di tutto, per il diritto di conquista, in qualche modo, che Satana si è ottenuto fin dagli albori della storia dell'umanità. Perché guardate, cari amici, non è che siano caduti soltanto Adamo ed Eva sotto il suo influsso, ma con Adamo ed Eva tutti noi siamo caduti sotto il suo influsso. Tant'è vero che noi nasciamo col peccato originale, senza la grazia di Dio. Nasciamo. E anche dopo il battesimo resta in noi l'inclinazione al male, la concupiscenza. Quindi Satana ha un diritto di conquista su tutti gli uomini, che non può essere sottovalutato, anche se va visto questo diritto di conquista che Satana si è acquistato nei confronti di tutti gli uomini, va visto alla luce della redenzione, cioè che c'è anche un diritto di conquista da parte di Cristo e della sua grazia. Però rimane in noi sempre questa spina, come la chiama Paolo, questo aculeo. Quindi non può essere sottovalutata la potenza del demonio, proprio perché in noi c'è la sua ferita, c'è il suo veleno, è la radice dei 7 vizi capitali, è la concupiscenza. È il veleno di Satana che rimane in noi anche dopo il battesimo, la concupiscenza. Non può essere sottovalutato il demonio perché, guardando in giro nel mondo, noi vediamo, cari amici, come pensiamo alla storia di questo secolo. Come il demonio aveva portato più volte l'umanità all'autodistruzione e all'adorazione dell'uomo iniquo, come lo chiama Paolo nella lettera ai Tessalonicesi, colui che si sostituisce a Dio. E d'altra parte la potenza di Satana, noi la vediamo anche nella nostra vita, come riesce a sedurci, come riesce a farci i suoi, magari illudendoci che siamo, perché ci sono anche le persone, pensiamo per esempio agli eretici, no? Al fanatismo ereticale di chi abbandona la fede per andare nei gruppi eretici, no? Per andare nelle sette. Queste persone sono convinte di essere nel giusto. In realtà hanno soffocato la voce della coscienza, hanno soffocato la voce dello spirito in loro, quindi, per carità, soltanto Dio può giudicare, però l'astuzia del demonio arriva fino a questi punti di illuderci di essere delle persone religiose, sante, quando invece siamo delle persone che hanno deviato dalla verità e dal bene. Per cui, se non si deve sopravvalutare la potenza di Satana, perché è soggetta alla onnipotenza di Dio, non si può e non si deve assolutamente sottovalutare la sua potenza d'inganno, che è grandissima. Difatti, come dice la Scrittura, cari amici, e come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, quando ci sarà la massima impostura, quella della fine dei tempi, saranno molti quelli che verranno sedotti. E se quei tempi non fossero abbreviati, anche molti degli eletti, cioè dei buonissimi, rischierebbero di essere sedotti. Gesù stesso dice: quando verrà il Figlio dell'uomo su questa terra, troverà ancora la fede? Per cui questa potenza del maligno anche dopo la redenzione non può essere sottovalutata. Anzi, dobbiamo stare molto in guardia perché sono molti quelli che lo seguono. Ai tempi dell'uomo iniquo saranno, diceva Paolo VI, che questa frase di Cristo crea sconcerto. Quando tornerà il Figlio dell'uomo sulla terra, troverà ancora la fede. Quindi vedete la potenza del maligno, che si sprigionerà lungo tutto il corso della storia, ma che si sprigionerà in modo speciale alla fine dei tempi, con la grande impostura, per cui gli uomini, l'umanità in blocco, salvo pochi eletti, salvo il resto di Israele, chiamiamolo così, penserà di risolvere i suoi problemi con le proprie forze, facendo a meno di Dio e appostatando dalla verità. Cito, cari amici, il Catechismo della Chiesa Cattolica. Quindi qui bisogna vedersi chiaro, cioè bisogna vedere da una parte l'onnipotenza di Dio, per cui non si può sopravvalutare la potenza di Satana come se lui fosse alla pari di Dio. Dio gli schiaccia la testa come e quando vuole. Vedete che con un semplice comando Cristo obbliga legioni di demoni a fuggire. La Madonna stessa, la Regina della Pace, ci ha detto che se noi con la preghiera possiamo, lei con la nostra preghiera può costringere Satana ad andarsene da qualsiasi persona, da qualsiasi posto. Anzi, ci ha detto, affrontate e combattete Satana con il rosario in mano. Quindi, accanto alla potenza di Cristo, che vedremo più avanti, dobbiamo mettere anche quella della Vergine potente contro il male. Adesso proseguiamo, cari amici, con il secondo paragrafo del sesto capitolo, col quale cerchiamo di analizzare una frase di Giovanni Battista di Giovanni l'Evangelista, che indubbiamente fa venire i brividi. Cioè, Giovanni l'Evangelista dice anche dopo, lo dice in piena redenzione avvenuta, che il mondo è posto sotto il potere del maligno. Dobbiamo cercare di interpretare lo spessore, le implicazioni di questa frase. Noi abbiamo già fatto delle anticipazioni, cioè il maligno ha quel potere che noi gli diamo e comunque sia non ha mai il potere sulla nostra volontà. Però adesso vediamo concretamente tutte le implicanze di questa affermazione biblica, che non può essere disattesa. Cosa vuol dire, cosa significa che Satana è il principe di questo mondo, che il mondo è sotto il potere del maligno? Cosa vuol dire tutto questo? Qual è la forza di Satana, cari amici? Allora leggiamo e commentiamo, per chi ha il mio libro, siamo a pagina 40, e scrivo: basta la vittoria iniziale di Satana sui progenitori per spiegare il grande potere che ha il maligno su questo mondo? Ti rispondo dicendo che innanzitutto il peccato dell'Eden non va assolutamente minimizzato né in se stesso né nelle sue gravissime conseguenze sul genere umano. Si è trattato di una vera e propria catastrofe spirituale. Infatti io amo chiamare proprio il peccato originale, amo chiamarlo la catastrofe originaria. È una vera e propria catastrofe spirituale, perché con esso, scrive il Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 398, che appunto valuta il peccato dell'Eden, con esso, scrive il Catechismo, cito letteralmente, l'uomo ha preferito se stesso a Dio e perciò ha disprezzato Dio. Ha fatto la scelta di se stesso contro Dio, contro le esigenze della propria condizione di creatura, cioè voleva essere Dio al posto di Dio, e conseguentemente contro il suo proprio bene. Sempre il Catechismo dice, creato in uno stato di santità, l'uomo era destinato ad essere pienamente divinizzato da Dio nella gloria. Sedotto dal diavolo, dice sempre il Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 398, sta descrivendo in un modo formidabile il peccato d'origine nelle sue implicanze spirituali, sedotto dal diavolo ha voluto diventare come Dio, ma senza Dio, e anteponendosi a Dio, non secondo Dio. Cioè l'umanità, come Lucifero, si è voluto dal diavolo, ha voluto diventare Dio, ma senza Dio, e anteponendosi a Dio e non secondo Dio. Voi sapete che di questo pericolo, di questo peccato, la Regina della Pace ha messo in guardia il mondo di oggi. Nel suo messaggio, tra gli ultimi messaggi della Regina della Pace, c'è proprio questo, che oggi il mondo, oggi gli uomini vogliono costruire un mondo senza Dio. Per questo sono infelici, per questo non c'è né futuro né salvezza eterna. Se proseguiranno a costruire un mondo senza Dio. Cioè, se stiamo ripetendo in un modo colossale a livello proprio di massa, cosa mai avvenuta prima nella storia, stiamo ripetendo il peccato originale, ma stavolta è l'umanità in blocco che vuole costruire un mondo senza Dio. Cioè, a prezzo dell'apostasia dalla verità. Quindi vedete, cari amici, che non rincorro farfalle. Cito l'insegnamento ufficiale della Chiesa. Seduto dal diavolo, l'uomo ha voluto diventare come Dio, ma senza Dio e anteponendosi a Dio, non secondo Dio. Si è trattato, scrivo, di un gesto di ribellione analogo a quello degli angeli ribelli, anche se non irreversibile e immutabile come il loro, a causa dei limiti della natura umana. Cioè, identico è stato il peccato degli angeli ribelli e il peccato degli uomini. Ambedue hanno voluto diventare come Dio, ma senza Dio e anteponendosi a Dio. Solo che mentre gli angeli, per la loro natura solamente spirituale, prettamente spirituale, hanno potuto fare in un solo momento una scelta irreversibile e immutabile, l'uomo non può fare questa scelta irreversibile e immutabile in un solo momento. Ecco perché la tradizione cattolica, sia orientale sia occidentale, ritiene che Adamo ed Eva si siano convertiti. E anche tutti gli uomini dopo un peccato possono convertirsi, perché loro non sono capaci, essendo spiriti incarnati, di scelte irreversibili e immutabili con un solo peccato. Questa scelta irreversibile e immutabile l'uomo la matura nel tempo della vita, fino all'ultimo istante della sua morte. Però, al di là di questo, l'essenza del peccato è identico sia per gli angeli sia per gli uomini. Cioè, nell'Eden Satana ha iniettato il suo veleno nelle vene di Adamo ed Eva. Quello di la sete di essere Dio al posto di Dio. È il peccato dell'uomo moderno anche, che vuole costruire un mondo senza Dio. Mai c'è stato nella storia l'ateismo di massa di oggi. Con Adamo ed Eva, l'umanità ha scelto la via proposta da Satana, abbandonando Dio e la sua grazia. Certo, l'uomo ha conservato in sé la capacità di fare il bene, sia pure con un libero arbitrio indebolito, ma essendo caduto per volontà propria sotto l'influsso del maligno, cede facilmente alle sue suggestioni, alle sue spinte e ai suoi inganni. Quindi, anche dopo questa catastrofe originaria, l'uomo, sia pure col libero arbitrio indebolito, ha conservato la capacità di fare il bene e di dire no a Satana. Però, essendo caduto per volontà propria sotto l'influsso del maligno, cede facilmente alle sue suggestioni, alle sue spinte e ai suoi inganni. Quindi l'uomo, anche dopo il peccato originale, potrebbe dir di no al maligno, però il suo libero arbitrio è indebolito, vulneratus, cioè ferito, dice il Concilio di Trento, e quindi con molta facilità, senza la grazia di Cristo, cede alle suggestioni del demonio, alle spinte e ai suoi inganni. Se tu mediti sulla storia dell'umanità, dalla cacciata dal paradiso terrestre fino al diluvio universale, cioè i capitoli 4 e 6 del Genesi, ti renderai conto che essa è presentata dalla Bibbia in termini assai negativi, come un processo di degradazione morale e spirituale, dove soprattutto la perversione sessuale e la violenza alimentano il fiume in piena del peccato e del male. Cioè, dopo il peccato originale, la Bibbia ci descrive l'umanità che procede velocemente verso la perversione, e come peccati che illustrino la perversione, la Bibbia presenta soprattutto le perversioni sessuali e la violenza, l'odio fra gli uomini. E il bilancio che fa lo stesso creatore è disastroso. È contenuto in Genesi 6,5-7, leggiamo questo passo biblico. Cioè, come dopo il peccato originale, l'umanità, pur avendo conservato ancora il libero arbitrio capace di fare il bene, vedete come cede al demonio e come precipita verso il male. Infatti, prima del diluvio, com'è la situazione? Vediamo quello che dice Dio. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni disegno concepito dal loro cuore non era altro che male. E il Signore si pentì d'aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Il Signore disse: sterminerò dalla terra l'uomo che ho creato, con l'uomo anche il bestiame, i rettili e gli uccelli del cielo, perché sono pentito di averli fatti. Genesi 6,5-7. Vedete, cari amici, dopo il peccato originale dilaga il male sulla terra, cioè Satana ormai con molta facilità, figuriamoci, era riuscito a sedurre Adamo ed Eva costituiti in grazia, figuriamoci l'umanità che ha in sé il suo veleno, se non riesce a spingerla verso forme di male sempre più gravi. Per cui il Signore dice: sterminerò la terra a causa della malvagità che c'è sulla terra. Ma attenzione, cari amici, anche dopo il diluvio la situazione non migliora. Neppure con l'elezione particolare del popolo di Israele vi è un ritorno a Dio. La parola dei profeti è un appello accorato alla conversione che percorre tutta la storia della salvezza, fino a culminare nella predicazione forte e potente di Giovanni Battista. Cioè, voi vedete la storia della salvezza che è presentata dalla Bibbia. Da una parte c'è il progredire verso la perversione dell'umanità, una perversione sempre più profonda, cioè Satana estende il suo dominio. Dall'altra, Dio manda i profeti per chiamare al cambiamento di vita. Tutti i profeti, fino a Giovanni Battista, non fanno che annunciare, che predicare, che supplicare la conversione. Lo stesso Gesù non inizia forse la sua missione con un invito perentorio a cambiare vita? E quali sono, cari amici, le prime parole che dice Gesù iniziando la vita pubblica? Sono riportate da Marco 1,15 e dice: convertitevi e credete al Vangelo. Queste, cari amici, sono le prime parole che escono dalla bocca di Gesù. Tutto questo sta a mostrare come, di fronte al maligno che estende il potere sul mondo e lo estende col consenso dell'uomo che si lascia sedurre, qual è la risposta di Dio? Manda i suoi profeti a chiamare l'uomo alla conversione. Quindi, ti rendi conto che la visione della storia umana che offre la parola di Dio, a partire dal peccato di origine fino alla venuta del Salvatore, è prevalentemente negativa. Non mancano certo qua e là luci di santità e un piccolo gregge di coloro che rimangono fedeli a Dio, come testimonianza che il bene è possibile. Tuttavia il mondo nel suo insieme moltiplica i peccati, rendendosi sempre più schiavo del maligno. Non pensare che la venuta del Redentore coincida con un momento di particolare fervore spirituale dell'umanità. Cioè non è che Gesù è venuto quando gli uomini erano pronti ad attenderlo. Al contrario, egli è venuto nel momento peggiore. È venuto, dice il Vangelo di Luca, come un sole dall'alto per rischiarare un mondo che giace nelle tenebre e nell'ombra di morte. Quindi quando è venuto il Redentore non è che c'era una preparazione spirituale, c'erano pochi, il resto di Israele che lo attendeva, gli Anauim, i piccoli, i poveri di Yahweh, ma il mondo, dice Luca, giaceva nelle tenebre e nell'ombra della morte. Come molti padri della Chiesa dicono, quando è venuto il Redentore, l'umanità era al culmine della perversione spirituale. Quando Gesù afferma che Satana è il principe di questo mondo, non fa che svelare l'impero del male che il tenebroso si era nascostamente costruito lungo tutto il corso della storia, occupando le menti e i cuori degli uomini e compenetrando la società e le sue istituzioni. Quindi quando Cristo è venuto, Satana aveva saldamente in mano il governo del mondo, perché gli uomini l'avevano seguito. E la figura, la presenza di Gesù, cari amici, getta una luce nuova sulla vastità del male e ne rivela l'occulto regista. Ma soprattutto egli afferma che con la sua venuta è incominciata la grande battaglia per liberare un mondo che giace tutto sotto l'impero del maligno, prima Giovanni 5,19. Quindi dal peccato di Adamo ed Eva fino a Cristo, Satana, col consenso degli uomini, il loro libero arbitrio era ancora capace di fare il bene ma comunque ferito, Satana consolida il dominio sul mondo. Quando viene Cristo mostra questo impero, difatti Satana subito affronta Cristo nelle tentazioni, ma Cristo sa che è venuto nel momento in cui Satana ha il massimo della potenza, ed è venuto appunto quando tutto il mondo giace sotto l'impero del maligno, è venuto per sconfiggerlo. Bene, cari amici, per oggi ci fermiamo qua, andremo avanti dopo, però quello che mi pareva mostrarvi è come la redenzione si è iniziata nel momento in cui Satana aveva esteso il dominio sul mondo. E la Bibbia presenta la storia dell'umanità da Adamo e Eva fino a Cristo come la storia della crescita del male e del peccato. Infatti Paolo cosa dice? Dove ha abbondato il peccato, lì ha sovrabbondato la grazia. Cioè nel momento in cui il peccato era al culmine, si è manifestata la divina misericordia e c'è stato l'evento dell'incarnazione. Ecco, cari amici, ora vedremo la seconda parte, ma la vedremo nel prossimo appuntamento, cioè come comunque Satana conservi un grande potere anche a redenzione avvenuta. Qui Radio Maria, abbiamo trasmesso il Falesario.